La prevenzione e l'eliminazione della mancanza di rispetto e dei maltrattamenti durante il parto nelle strutture sanitarie. Dichiarazione dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma ovunque nel mondo numerose donne fanno esperienza di trattamenti non rispettosi e di maltrattamenti durante il parto nelle strutture sanitarie. Questo genere di trattamento costituisce una violazione dei diritti, una minaccia alla vita, alla salute, all'integrità fisica. Un numero crescente di studi fornisce un quadro preoccupante della situazione. Il parto rimane per le donne il momento più delicato in cui sono più vulnerabili. Allora, maltrattamenti fisici, umiliazioni gravi, aggressioni verbali, procedure mediche imposte in modo coercitivo e eseguite senza l'acquisizione del consenso, mancanza di confidenzialità, vabbè, rifiuto di amministrazione di farmaci contro il dolore, violazioni eclatanti della loro intimità, negligenze che determinano complicazioni che sarebbero state evitabili, va bene, eh? È necessario un intervento maggiore per sostenere i cambiamenti dei sistemi sanitari. Sostegno morale, possibilità di muoversi, accesso a cibo e bevande, preservazione dell'intimità, confidenzialità. I maltrattamenti subiti durante il parto rientrano nell'inquadramento giuridico internazionale sui diritti umani. Articolo 6, 8, 10. Bene, bene. Tra poco sono le 9 ed è un primo figlio. Se le rompo il sacco e le metto la flebo, aumentano i dolori e in 3 ore la faccio partorire. Così ci mettiamo tutti un po' giù. Domani è martedì, il dottor Paoli a studio la mattina e anch'io del resto ho le mie cose da fare. Vediamo se questa ha fatto la visita dall'anestesista, che le facciamo subito una bella epidurale, che così sta buona buona e non si agita. No, perché ultimamente me ne sono capitate due con la testa piena di farfalline. Una voleva partorire in piedi e non c'era verso di metterla giù. Ho dovuto disturbare il dottore e lui gliel'ha detto. Allora, signora, che cosa ci sono venuto a fare qui? Lo vogliamo far nascere questo bambino? Su, faccia la brava, si metta giù e apra bene le gambe. E ora spinga giù al sedere, spinga come per fare la cacca, forza, così. Gesù, sembrava lui l'ostetrica. Ah, ma la signora si è messa giù e non ha fatto più storie. Come si deve essere spaventata a vedere quel dottore grosso grosso che gli ha infilato tutta la mano dentro. Certo, le urla si sono sentite fino in radiologia, ma con una bella spinta data sulla pancia e un taglio fatto bene, in pochi minuti il bambino era fuori. Altro che parto in piedi. Con l'altra è stato più difficile. Ha voluto fare di testa sua e ha partorito in piedi come una bestia. Il bambino stava bene, ma il pediatra l'ha voluto ricoverare lo stesso in patologia per maggiore sicurezza, e la madre non l'ha potuto tenere con sé e le sta bene. Era una stupida, lo sanno tutti come funziona qui, che ci sono delle regole. Se voleva fare come voleva, poteva pure andare da qualche altra parte, eh? Restare a casa, partorire con la Teresa, che così morivano lei e il bambino. Mica lo capiscono che se non facciamo così, se non li aiutiamo noi, rischiano la creatura. Perché finché va tutto bene, sono tutti bravi a fare filosofia, ma se poi succede qualcosa? Sì, certo, un incidente può capitare anche qui, è normale. L'anno scorso, quella brutta storia del dottor Rosati, io gliel'avevo detto: dottor Rosati, la smetta, sta spingendo troppo, così guardi che ci perdiamo la madre. Che corsa in sala operatoria, la signora l'abbiamo aperta, si vedeva tutto sangue, gli abbiamo tolto l'utero che aveva uno sbraco da qui a qui, ma con 4 sacche di sangue l'abbiamo salvata. 2 settimane in rianimazione. Il dottor Rosati veniva a trovarla tutti i giorni, se avesse potuto le avrebbe portato pure i fiori. È chiaro, uno si mette paura con tutte le denunce che ci sono, non si può mai stare tranquilli. E l'altro mese una paziente del professor Giuliani, il primario, era arrivata alla fine, ma il battito non c'era più, il bambino le era morto dentro. Poverina, come piangeva. Ma la suocera urlava: con tutti i soldi che ho dato al professore e le visite e le ecografie, questa storia non doveva proprio succedere. Io vi denuncio tutti, tutto l'ospedale. Siete degli assassini. Mica lo capiscono che puoi farti visitare anche dal Padre Eterno, fare tutte le analisi del mondo, ma un bimbo sano è un regalo del Signore e alle volte va così e non c'è niente da fare. Con questa qui stasera stiamo andando avanti bene. Allora, cara, adesso ti aiuto io e vedrai che facciamo presto. Allora, il sacco l'abbiamo rotto, i dolori sono aumentati. Eh? No, bella, no, non ti puoi alzare. Devi tenere il monitoraggio, non lo possiamo mica togliere. Guarda che bisogna controllare il bambino, dobbiamo capire se c'è sofferenza. Se non ce la fai, ti faccio una bella epidurale così ti riposi un po'. Lo so che se rompi il sacco e metti la flebo le contrazioni aumentano e una vede pure le madonne, ma santa epidurale che così non la sento più. Io ho iniziato a fare questo mestiere 25 anni fa, saranno stati i primi di settembre. A fare il tirocinio c'eravamo noi e gli studenti di medicina, noi eravamo le allieve e loro erano i dottori. Ed era giusto così, loro avevano fatto l'università, noi no. Mica come adesso che si fanno chiamare tutte dottoresse e non hanno nessuna vergogna. Al tempo, se volevi fare l'ostetrica, dovevi fare il convitto, che era al terzo piano dell'ospedale. Solo così si poteva capire se una era adatta al mestiere. Ci si alzava insieme, si mangiava insieme, la domenica c'era la messa. Una volta alla settimana si poteva uscire, però solo fino alle 8, che poi le suore chiudevano il portone, eh? E se una restava fuori, erano guai. Una volta l'hanno cacciata perché si faceva venire a prendere dal fidanzato proprio sotto l'ospedale. Non potevi fare come volevi se stavi al convitto, c'erano delle regole. Il primo giorno ci hanno dato da mettere una divisa bianca con una gonna ampia, stretta in vita e un cappellino da croce rossina, duro, d'amido, che ci faceva male perché ci tirava tutti i capelli. Ah, ma a noi piaceva lo stesso, perché quando passavamo tutte insieme sembravamo proprio delle belle bamboline di porcellana e i dottori, quelli più giovani, si giravano a guardarci eccitati, cioè ci spogliavano con gli occhi e subito ci chiamavano con qualche scusa. Signorina, ha passato la terapia? Signorina, quella del letto 3, ha ancora la febbre? E continuavano con 100 domande. Vabbè, noi lo capivamo che erano delle scuse, ma che potevamo farci? Loro erano i dottori e noi le ostetriche. A quel punto le ostetriche più anziane andavano in bestia e subito ci comandavano qualcosa da fare. Signorina, ma vedi un po' di andare a pulire le padelle, eh? Lava un po' quella paziente, signorina, quella allettata, cambia le lenzuola sporche. E mentre ci comandavano il da fare, loro sorridevano ai medici accavallando le gambe. Il primo turno io l'ho fatto di notte. Si stava dalle 9 di sera alle 7 del mattino senza fermarsi un attimo. Eravamo 6 allieve e 4 ostetriche per ogni turno. La più anziana era la capo ostetrica e comandava su tutte. La sala travaglio era una stanza grande con 6 letti e dei soffitti alti e sporchi con dei neon grigi che la facevano sembrare ancora più triste e alta. Era estate, faceva un caldo terribile da mancare l'aria. Le donne erano 3 per ogni lato, ognuna con una sua storia. C'era quella che aveva appena iniziato con i dolori e ci guardava spaventata sentendo le urla della poverina già in sala parto. Ce n'era un'altra che piangeva perché le era morto il bambino dentro e ora le toccava anche di partorirlo, morto, e non si capiva se piangeva di più per la creatura che era morta o per la paura di passare tutti quei dolori. E poi c'era una terza, non lo so, avrà avuto qualche accidente, ecco, magari la pressione alta, e se ne stava da giorni in sala travaglio ad aspettare. Che qualcuno si decidesse a sistemarla e a toglierle il bambino dalla pancia, anche con un cesareo, che ormai, dopo tutto quello che aveva visto in sala travaglio, la fantasia le era proprio passata. All'inizio mi era anche dispiaciuto per queste donne e cercavo di aiutarle. A una tenevo la mano, a un'altra la consolavo, a tutte davo garze bagnate da succhiare. Perché bere, sì, durante il travaglio era proibito e le garze bagnate erano l'unico sollievo con quel gran caldo. Insomma, cercavo di alleviare le sofferenze. Ma poi le ostetriche più anziane mi hanno insegnato: no, non si fa, le indebolisci, diventano subito delle fregne mosce, non si riesce a combinare più nulla. E avevano ragione. Appena una donna si accorgeva che la compativi era finita e ti si aggrappavano alle vesti e cercavano di alzarsi e ti pregavano, urlavano invece di starsene buone, buone, guarda, almeno sdraiati su un fianco, dovete lasciar fare alla natura, i dolori devono fare il loro corso e prima o poi partorirete. E quando gli dicevi di spingere, spingevano male. Ma non spingere così, che ti fai scoppiare tutti i capillari nel bianco degli occhi! Allora la capostetrica, la Zingaretti, lasciava la cucina e strillava: smettetela! È pericoloso per il bambino! Se continuate così non vi aiutiamo più! Vi lasciamo qui per chissà quanto tempo ancora con i dolori! E le donne si zittivano subito, spaventate. Ma noi lo vedevamo, che continuavano a piangere, a lamentarsi, con la testa nel cuscino e la mano sulla bocca, cercando di soffocare i singhiozzi. Allora, appena la Zingaretti se ne andava, dicevamo loro: buone, buone, stringete i denti, che ve li regaliamo noi quei benedetti 9 centimetri che vi servono per andare in sala parto. E facevamo la dilatazione manuale, l'indice e il medio in vagina, aprivamo le dita con forza fino a sentirsele completamente indolenzite, facendo forza proprio sul collo dell'utero, badando bene però che non si rompesse, non sanguinasse troppo, se no erano guai. In sala parto non era meglio, ma loro ancora non lo sapevano e comunque avevano la speranza che sarebbe finita presto. Dopo la sala parto non c'è niente, o partorite o andate in sala operatoria, che terminasse tutto il più presto possibile. Questo era l'unico pensiero. Di sale parto ne avevamo 3, 2 erano uguali, avevano un lettino di ferro con i cinghiali, con le cinte di cuoli e i cosciali, e un carrello con le pezze pulite, ferri sterili, attaccato al muro. E poi c'era la terza sala, quella delle infette, quelle che avevano una malattia contagiosa. Era più piccola e buia. Oltre al lettino e al carrello c'era un frigorifero per le placente, che faceva un rumore che sembrava un trattore, e un lettino mezzo arrugginito. A noi allieve piaceva molto quella sala, perché avevamo il permesso di stenderci quando non c'erano travagli. Ah, e non ce ne importava niente che fosse la sala delle infette, se potevamo buttarci un po' giù. Quando si portavano le donne in sala parto, succedeva una cosa strana. Mentre in sala travaglio c'eravamo soltanto noi allieve, in sala parto in pochi minuti intorno alla donna si formava una piccola folla: medici, ostetriche, dottorini che ancora studiavano, infermieri, portantini e naturalmente noi allieve. A quel punto la donna doveva partorire presto e bene, ne andava dell'onore dell'ostetrica. Che cosa ce l'ha portata a fare lì se ancora non è pronta? Come prima cosa legavamo le gambe ai cosciali con le cinte di cuoio. Poi la insaponavamo bene e con il rasoio toglievamo tutti i peli. La Zingaretti veniva sempre a controllare, perché ci teneva che questa pulizia fosse fatta con molta cura, e non era una cosa per niente facile con la donna che si divincolava per i dolori ad ogni contrazione. E poi restava da mettere i ferri e le pezze nel carrello, la cinta sulla pancia, e tutto era pronto. E a me veniva sempre una grande angoscia. Sia che il parto lo facevo con l'ostetrica, sia se stavo con la donna e le tenevo la mano, ma stavo zitta, altrimenti mi avrebbero cacciata. La Zingaretti lo ripeteva sempre: per questo mestiere ci vogliono le palle, non si può fare se uno ha il cuore tenero e troppo sensibile, con le donne bisogna essere dure, che poi partoriscono meglio e ti ringraziano anche. Io poi dovevo stare attenta, perché qualcuno si ricordava che la prima volta in sala parto ero svenuta e mi hanno guardata con sospetto, almeno fino a che non ho fatto i miei parti e ho mostrato di avere un po' di polso. Ma avevo comunque paura. Avevo paura perché non sapevo ma quante spinte, quante urla ci vogliono prima che nasca il bambino. E sempre pregavo tra me e a me che la testa uscisse subito, almeno questa volta, e con la testa tutta la creatura dietro. Ma non succedeva quasi mai. Quello che di solito succedeva era che prima che la faccenda si facesse troppo lunga e il medico si spazientisse e iniziasse a guardar male l'ostetrica, noi chiamavamo Aldo, il portantino, quello grosso. Dai Aldo, un aiutino, una spinta sulla pancia, forte sì Aldo, ma con attenzione, che più di una volta ha fatto danni e due o tre costole della donna si sono rotte. Aldo, poi i parenti si lamentano e che cosa vanno a raccontare fuori di quello che facciamo alle donne qui in ospedale? La caratteristica principale delle sale parto e delle sale travaglio è che qui le donne soffrono e si lamentano sempre. I loro lamenti, lunghi, insistenti, senza fine, che duravano giorni e notti intere, noi li vivevamo come una ingiusta punizione. Possibile che ci sottoponessero ogni volta quello strazio? Piano piano, anche noi allieve, seguendo le ostetriche più anziane, ci convincevamo che le donne fossero perfide, per ripetere ad ogni nuovo travaglio, ad ogni nuovo parto, quel pianto così, così fastidioso e pungente che ti entrava dentro il cervello e non riuscivi a cacciarlo più. Possibile che non si rendessero conto che lamentarsi era inutile, che questo è il destino della donna, perché così ha deciso la natura. E quindi, anche se le donne erano sempre diverse, a noi sembravano la stessa persona. Quasi fosse la stessa donna e ci aspettavamo che diventasse più brava a sopportare, a spingere e soprattutto che ci desse un po' di requie. E invece no, volevano darci fastidio di proposito, non lasciarci mai tranquille, neanche di notte, neanche un momento. Magari provavano anche un po' di godimento a torturarci così, o forse erano solo stupide perché la storia si ripeteva uguale ad ogni nuovo parto, in culo gli entrava, in testa no. E allora se lo meritavano che ci prendessimo un pochino gioco di loro. E quando, dopo le urla dei dolori, imploravano: ah, ah, ah, non ce la faccio più, non ce la faccio più, quando nascerà? Bella, ti è piaciuto il dolce? E adesso caga l'amaro. Spingi, bella, spingi che non stai a caracalla. L'hai mangiato il pesce, eh? E adesso caga la spina. Quando partorirai? Partorirai quando ti suderanno i denti. Partorirai quando ti suderanno i denti era la mia preferita. No, perché non la capivano subito, le lasciavano così un po' smarrite, lo so, però noi potevamo sottrarci a quel supplizio che eravamo sicure di non meritare. D'altra parte, è la natura che fa partorire così, e la natura non domanda mica il permesso. Noi siamo obbligate ad accettarla così com'è. E se alla donna è toccato partorire con dolore, ma cosa pretendono da noi? Ma che ci lasciassero in pace con i loro lamenti, che non ce l'abbiamo la forza di sopportarli? Siamo donne anche noi. No, ma questi pensieri io li avevo all'inizio, nei primi tempi. Poi mi ci sono abituata, adesso non ci faccio neanche caso ai loro lamenti. No, forse abituata non è la parola giusta. Diciamo che mi sono rassegnata, ho imparato a tollerarli, ci sono e sono normali. Allora, cara, bene, bene, vedrai che facciamo presto. Apri bene e tira su le gambe, di più. Adesso fa quello che ti dico io. Spingi forte, spingi più forte che puoi. Dai, trattieni l'aria, ma non spingere in gola, che ti fai scoppiare tutti i capillari al bianco degli occhi. Spingi giù al sedere, come per fare la cacca. No, dai, bella, non mollare. Spingi che poi ti aiuto io. Ci sei quasi, chiamo il medico. Come? Vuoi la puntura? Eh no, bella, l'epidurale l'abbiamo fatta prima, se la rifacciamo adesso il bambino non scende più. E poi, quanto ci tocca aspettare? Certo che da quando c'è l'epidurale le donne sono diventate tutte delle cecione. Spesso di notte, se c'era da fare, non si poteva dormire, noi ci mettevamo in cucina con le ostetriche anziane per prendere un po' di caffè caldo e non sentire più tutte quelle lagne. Ci raccontavamo le nostre storie, magari così dell'ultima lettera del fidanzato che era un po' più distante, meno appassionato. Le ostetriche la mettevano giù facile. Anna, quando uno studia non deve avere altri pensieri. Gli uomini sono tutti uguali, quello si sarà già consolato, chissà con chi sta, dove sta, è normale. Ma era difficile. Noi soffrivamo per quella vita di suore, di recluse che eravamo costrette a fare. Le ostetriche del nostro turno erano già sposate e avevano tutte dei figli. A loro piaceva parlare dei loro parti e noi, per farle contente, gli chiedevamo di raccontarceli, ma non erano molto diversi da quelli che vedevamo in ospedale. Tutte avevano scelto quel posto perché ci lavoravano e tutte avevano ricevuto lo stesso trattamento: un clistere d'acqua saponata all'inizio dei dolori, la rottura del sacco e una flebo per aiutare il travaglio. Alcune si vantavano: Anna, il primario in persona è venuto a visitarmi, guarda che questo è un segno di stima, è proprio un premio. Veramente, per una di loro, la De Santis, era venuto anche di notte ed era rimasto in piedi tutto il travaglio fino alla nascita del bambino. E su questa cosa si era molto chiacchierato, alludendo a una relazione tra i due. Vabbè, ma era normale. Si stava insieme tanto tempo, di giorno, di notte, durante le feste. Si condividevano momenti di gioia, di dolore. E quello che doveva accadere, accadeva. Alcune ostetriche raccontavano che durante il travaglio erano state aiutate con la dilatazione, l'indice e il medio, in vagina, dalle colleghe. Questa era la parte che si ricordavano come la più dolorosa, ma la raccontavano con gratitudine. Erano ore in meno di patimenti, la sofferenza così si accorciava. Anche a loro, in sala parto, avevano legato le gambe. Anche loro erano state depilate e anche a loro era stato fatto il taglio. Tutte descrivevano il parto come il momento più doloroso della loro vita e si sforzavano di aggiungere sempre nuovi particolari. Ah no, io ho sofferto di più. Ma no, senti a me, senti quello che ti dico adesso. No, io ho sofferto di più. Ma alla fine, ma i loro racconti erano tutti uguali e descrivevano la grande sofferenza patita come un prezzo necessario per avere il bambino. Certo, era doloroso, ma che cosa si poteva fare? Poi il bambino nasceva, i dolori passavano, si dimenticavano e rimaneva solo quella sensazione di gioia, di felicità infinita. Su questo tutte erano d'accordo. Le ginecologhe, no. No, loro e i loro parti non le raccontavano. E noi lo sapevamo perché. Tutte per sé avevano scelto il cesario e le ostetriche maligne. Ah oh, se la vogliono conservare nuova per il marito, ma povere sceme, ma non è meglio un bel parto e dopo il taglio te la fai cucire più stretta? Questa del taglio era la cosa che mi aveva colpito di più, forse perché non me l'aspettavo. Io sapevo bene dei dolori anche prima, dai racconti di mia madre, delle zie, no? E i figli li avevano avuti tutti a casa, compresa me, per terra, come delle bestie. Va bene, si usava così nel piccolo paesino da dove vengo io. L'ospedale più vicino era troppo lontano. Una volta mia madre, l'avevo pure aiutata, col fratellino mio più piccolo, Michelino. Avevo 10 anni. Mio padre era uscito per chiamare l'ostetrica, ma tardavano. A mia madre sono iniziati i dolori forti e ci ha detto: bambini, fuori, fuori, fuori di casa! E io e mia sorella Cecilia cercavamo di tenere buoni Giorgio e Matteo, che erano più piccoli, lì davanti alla porta di casa ad aspettare. Per fortuna che era mattina. E sentivamo dentro mia madre che faceva dei rumori strani. Sembrava tipo di sentir muggire una mucca. A me a Cecilia ci veniva da ridere, però Giorgio e Matteo piangevano. Io ero troppo curiosa, dovevo vedere che cosa stesse accadendo. Allora li ho messi tutti seduti e gli ho detto: buoni, state buoni, e io adesso vado dentro e vi prendo qualche cosa da mangiare. Però io vi avverto che se vi sento piangere esco e ve le do, vi giuro che ve le do. E sono entrata. Mia madre era per terra, carponi, sembrava proprio una mucca. Faceva un rumore strano, profondo, non sembrava neanche la sua voce. Sul pavimento c'erano dei panni buttati per terra, forse aveva cercato di prendere qualcosa e tutto era caduto giù. Non ha alzato la testa, non ha fatto nessun cenno, sembrava che non si fosse neanche accorta della mia presenza. Ha continuato a muoversi avanti, indietro, lentamente, a fare quel lungo e profondo a me veniva un po' da ridere, un po' da piangere, ma soprattutto non sapevo che cosa fare. Mamma, mamma, senti, dove li devo mettere questi panni? Te li piego, te li metto sulla sedia? Mamma, mamma, vuoi che metto sull'acqua? Avevo sentito dire questa cosa tante volte, che ogni volta che nasceva un bambino c'era bisogno dell'acqua calda e dei panni puliti, e finalmente anch'io potevo fare qualche cosa. Ma mamma non rispondeva. Respirava forte e senza muoversi da quella posizione cercava di tirarsi su la gonna e liberarsi dai vestiti. Io ero paralizzata, non sapevo che cosa fare. Mi veniva da piangere. Allora, no, la cosa più importante deve essere l'acqua sul fuoco. E mentre riempivo la pentola, ho sentito un altro suono, più profondo, più forte e lungo degli altri, come se un animale entrato in casa si aggirasse in cucina con la bocca spalancata e mostrando i denti facesse quello strano, spaventoso ruggito lungo lungo che non finiva mai. Poi il silenzio e mia madre, ancora con la gonna addosso, ha alzato la testa tutta rossa, sorridente, e con una mano cercava qualcosa tra le gambe. E qualcosa c'era, era Michelino. Anna, Anna, amore, mi passi i panni? Anna, mi senti, tesoro? Passami i panni, quelli sulla sedia. Era di nuovo la sua voce, più calma e più rilassata del solito. Le ho passato i panni e ho pianto. Ma no, non c'era stato nessun taglio, di questo sono sicura. No, del taglio io ho sentito dire per la prima volta dalla maestra ostetrica a lezione. Sembrava una cosa piccola che va fatta, di routine dicevano, una delle tante pratiche a cui si sottopongono le donne per farle partorire. Routine, eh? Routine è una parola usata in continuazione in ospedale e vuol dire che si fa tutte, senza distinzione, sia che serva o meno. All'inizio per me era difficile capire quando tagliare, perché, come diceva il dottor Romano Carosi, signorine, qui la questione è quando tagliare, mai se tagliare. Questo non è in discussione. Del resto lo sapete, non ci siete solo voi a fare il tirocinio, ci sono anche i miei studenti di medicina che devono imparare a cucire, ma se voi non tagliate loro, che cosa ci stanno a fare qui? Non mi è venuto subito naturale tagliare la vagina di un'altra donna, abituarsi a quanta forza mettere nel chiudere le forbici e sentire la carne cedere sotto la lama, facendo attenzione a non ferire anche la testa del bambino. Usciva subito tanto sangue, non si vedeva più niente. Sentivo solo colare il liquido caldo e rosso nella mano appoggiata appena sotto. Le prime volte mi impressionava molto sentire l'urlo più acuto della donna coincidere con le forbici che si chiudevano. Allora, per farmi coraggio, immaginavo di essere una sacerdotessa che compiva un antico rito sacrificale in un qualche villaggio indù. E ci prendevo persino gusto e tagliavo finché la maestra ostretica diceva: no, no, no, no, no, no, no, non tagliare più, basta così. A quel punto qualcuno dava una spinta sulla pancia e la testa usciva, piena di sangue, rossa, del sangue della madre. E io sempre pregavo di non aver tagliato anche il bambino, che in sala parto si raccontava sempre di allieve che avevano graffiato anche di brutto la testa o il viso ai neonati. Un'altra spinta e uscivano le spalle e tutto il corpo, che scivolava caldo e morbido. E finalmente il silenzio, solo il pianto del bambino, che ci sembrava una dolce melodia dopo tutte quelle urla. Come prima cosa tagliavamo il cordone, massaggiavamo forte il bambino e lo passavamo alle altre allieve, che lo asciugavano, aspiravano, facevano il bagnetto, mettevano i vestitini puliti. Ora il neonato era dell'ospedale. La madre può toccarlo solo quando lo diciamo noi e negli orari consentiti dal nido. Del resto, non riuscivano più a dire neanche una parola. Dopo tutte quelle urla, neanche una parola gli usciva dalla bocca. Ma tanto lo sapevamo quello che volevano sapere. È vivo? Sta bene? È maschio? È femmina? E restavano così, con le gambe aperte, ancora legate. Forse se ne accorgevano solo in quel momento che le avevamo legate per il parto. Del resto, bisognava legarle. Ma pensate veramente che sia possibile che una persona spontaneamente si lasci aprire le gambe per farsi tagliare in quel modo? Sì, a volte facevamo un po' di anestetico, ma raramente, ma tanto lo sapevamo che non serviva. E il taglio lo avrebbero sentito lo stesso. Se ne accorgevano poi ai punti che l'anestetico non faceva molto e saltavano ogni volta che il medico passava col l'ago. Ma era l'ultimo dolore, bisognava stringere i denti, altrimenti i medici non riuscivano a cucire e si arrabbiavano. Signora, se trema così io non riesco a fare il mio lavoro, non riesco a fare niente. Guardi, se ha ancora 10 minuti di pazienza abbiamo fatto. Su, faccia la brava, apra bene le gambe e metta giù questo sedere. E poi, sorridendo a noi ostetriche: signora, se fa la brava, la facciamo stretta stretta, che così suo marito è più contento. No, ma le donne ci ringraziavano sempre dopo, eh? Scusate, scusate, ho urlato tanto, non sono stata brava, perdonatemi. Voi siete state così buone con me, senza di voi non ce l'avrei fatta, non sei mai riuscita a far nascere il mio bambino. Allora le ostetriche, in segno d'affetto, gli davano un pizzicotto così sulla guancia. Su, su, bella, che è andato bene. Fa attenzione che hai i punti sotto. Lavati bene con il disinfettante, che altrimenti fanno infezione. E se ne tornavano in cucina. Ecco, abbiamo fatto. Brava, brava, sei stata proprio brava. Hai visto come abbiamo fatto presto? Adesso mettiamo i punti e abbiamo finito. Come? Vuoi il bambino? Eh no, bella, il bambino lo vedi domani. Ormai è quasi mezzanotte, lo teniamo al nido, al calduccio, e così tu ti riposi. Bella, l'hai tenuto quasi 5 minuti sulla pancia. Guarda che di più il pediatra non vuole. Devono fare i controlli. Certo che le donne non sono mai contente. L'abbiamo fatta partorire in un attimo. Con l'epidurale neanche se ne è accorta e adesso pretende pure di allattare. Ma non si rende conto che è stanca, sfinita, che da sola non ce la può fare. Poi alla fine che succede? Che mi chiama e mi tocca pure alzarmi. Tanto adesso il latte non ce l'ha. E l'aggiunta è meglio che gliela diamo noi, non si sa mai. Una volta una, il biberon con l'aggiunta, non me l'ha rovesciato tutto nel lavandino. Io il latte ce l'ho, quanto l'ho strellata. E un'altra cretina, ma non l'ho trovata tutta accucciata fuori dalla porta del nido che piangeva il mio bambino, voglio il mio bambino. Mica lo capiscono che se il pediatra dice una cosa bisogna farla. Se ti dà il biberon con l'aggiunta è perché serve. Vabbè, ormai è tardi, ci mettiamo tutti un po' giù, chiamo il dottor Paoli, abbiamo finito. Dottor Paoli, qui abbiamo fatto con la placenta. Deve venire a mettere i punti che dalla ferita sanguina un po'. Il dottor Paoli è un bravo dottore. È il più anziano che abbiamo e mi vuole bene. Beh, come potrebbe essere altrimenti? Io ho iniziato a fare questo mestiere con lui. Certo, questo non è il grande ospedale di un tempo, però anche qui i nostri parti li abbiamo fatti. Ora verrà e come sempre mi dirà: Anna, cara Anna, come sono contento che c'è lei stasera. Io con lei mi sento più tranquillo. Ha visto che con una bella spinta sulla pancia un taglio hanno fatto ad arte. La signora ha partorito subito. Il bambino era piccolo, ma non vuol dire niente. L'episiotomia va fatta sempre di routine, come ci hanno insegnato, che se poi si lacera è una seccatura in più. Si ricorda, Anna, che cosa diceva il professor Turati? Il parto è fisiologico solo a posteriori, solo quando un bambino è nato si può stare tranquilli. Ogni parto è pericoloso. E aveva ragione Anna. Si ricorda quando lavoravamo al policlinico, quella stanza grande, le donne tutte insieme e le urla? Anna se ne ricorda, le urla. Neanche i mariti potevano entrare ed era un bene. Così se qualcuna faceva storie non si facevano tante cerimonie, due schiaffi così per farle ragionare e poi dopo come spingevano Anna, Non è vero Anna? Tante cose adesso si sono perse, Anna. Il clistere, la depilazione, poi. E qualcuna che non si vuole neanche più mettere sul lettino, dicono che al corso preparto gli fanno provare le posizioni alternative, vogliono partorire in piedi o accovacciate, ma io dico, ma che cosa pretendono? Ma sono un dottore, mica un meccanico. E poi? In quella posizione l'episiotomia neanche si può fare. E se succede qualcosa? Del resto le donne hanno sempre partorito sul lettino. Le legavamo pure. Ed erano contente lo stesso, non è vero Anna? Anna, erano contente lo stesso? Anna, erano contente? Anna, mi sente Anna? Non lo so. Io un figlio non l'ho mai avuto e su quel lettino non mi ci sono mai messa e penso a mia madre, a quella stanza, al camino, alla sedia, a lei che ruggisce e mi vergogno. Cosa diceva dottor Paoli? Le posizioni? No, io quelle cose non le permetto, quelle cose le fanno le nuove ostetriche, chissà chi si credono di essere. Io sono 25 anni che faccio partorire sul lettino e mi sono sempre trovata bene. Certo, è doloroso, ma tanto adesso c'è anche l'epidurale. E poi, che ci possiamo fare? È la natura. O no?